Siamo noi due canta storie, vi portiamo una favola. We tell stories. Today we are going to tell you a story from the forest. Yes. Bisogna ricordarsi cosa c'era una volta. Bisogna mantenere i gioielli della vita. L'inizio, noi eravamo, abbiamo fatto la scuola a Dimitri, ci siamo incontrati nella scuola. Poi abbiamo fatto la compagnia a Dimitri, eravamo ingaggiati, no? Tutti e due. Lì potevamo già un po' guadagnare soldi, vedere un po' cos'è il lavoro di fare spettacoli, andare in giro. E lì avevamo 2 anni di contratti e dopo un anno già con Martin abbiamo visto, ma a noi piace andare dalla gente, far qualcosa, sì, fuori in una tenda, portarla a casa con noi. Lì è già nato tutto il progetto. Open your eyes, prick up your ears, the story is starting. Ecco, ora siamo tutti pronti, diamo il via alla favola. 99. L'inizio veramente del progetto era 99, quindi avevo 29, Nicole 28. Io da Basilea, Nicole da Ginevra, che ci abbiamo incontrate nella stessa classe. E in questi 2 anni, si può dire, abbiamo detto, sarebbe bello di fare qualcosa solo noi due, perché siamo stati 5 anni lì, quasi, in Ticino, a Verso, poi 2 anni in tournée. E lì abbiamo detto, oh, è bello il teatro, però ci è piaciuto qualcosa di più, un po' più popolare. Un po' più. Allora andiamo, era in questo periodo che siamo stati in grandi teatri, tutta l'Europa siamo girati. E poi non vedi più, non vedi il pubblico, è un po' quasi assurdo, quasi ti sale nella testa, è assurdo. E non vedi neanche il pubblico, chi recita? Sei lì, ti cambi, dopo vai all'hotel, tu senti che hanno piacere, però non li vedi. Allora facciamo noi il teatro di strada. E lì abbiamo iniziato di parlare, di provare cosa potremmo fare. Viaggiare, viaggiamo e poi raccontiamo una storia, poi la gente ci dà da mangiare. Una fanciulla, un re. Come nelle favole. Ascoltate, guardate, vi racconteremo di loro. Questa è la nostra storia, forse anche la tua. Dai, mettiamoci tutti insieme alla ricerca. Tu regina e tu re. Cette histoire d'une jeune fille et d'un roi on comptera. Noi avevamo questa voglia di far del nostro lavoro la vita, no? Che tutto diventa uno, che la nostra vita, il nostro lavoro, la nostra vita, non so come dire. Abbiamo tutto dato a bici, tutta la casa. Tutti i bici, tutto offerto, non abbiamo più bisogno di niente, 2 pantaloni ognuno, 2 scarpe. Abbiamo avuto niente, né frigo, né aspirapolvere, tutto lasciato, ho detto solo cosa va dentro nella... E poi partiamo per sempre, siamo lasciati Ticino, per giù, che triste partenza, però anche molto bello, emotivo si può dire, col trattore tutti ciao, che ci hanno visto cioè, 2 anni costruire questa carrozzone, uno spettacolo in Ticino, poi 3 giorni di viaggio, trattore a 20 all'ora, poi a Basilea, poi Svizzera interna, Svizzera francese, e così abbiamo girato tutto il primo anno e dopo ho detto, penso torniamo in Ticino. Sai, dove andiamo l'inverno? Iniziamo a fare freddo. Però penso l'importante era di dire partiamo. non so, è come se sempre la vita ci ha fatto vedere i prossimi passi. E questo ci ha anche dato sempre fiducia nelle decisioni. Perché non è che eravamo lì a dirsi siamo un po' piccoli, potremmo essere più grandi. Per noi quando arrivava il momento è come si sentiva adesso è giusto. Perché abbiamo fatto credo 3 anni senza nessuno, senza così col cappello. Poi dopo i 3 anni è venuto l'estero, perché lì facevamo solo la Svizzera, tranquilli, poco viaggio. Però dopo chiedevano la Francia, cioè avevamo tanti ingaggi per l'estero. Lì era la domanda, cosa vuoi? Recitare solo in Svizzera col tuo trattore o andare anche in altri paesi dove ti chiedono adesso, no? Io ho preso un pesce che ha detto di essere un principe stregato. Un principe stregato? Sì, e poteva parlare. E dove l'hai messo? L'ho rilasciato libero. E cosa gli hai chiesto in cambio? Niente. Avresti potuto chiedere una piccola casa. Guarda come viviamo, è una miseria, miseria. Qui piove dentro, sopra la mia testa. Oh, beh, questo posso riparare. Però un po' scherzando, diciamo, adesso siamo arrivati, non so, al castello quasi. Che perché abbiamo un quarto tendone, 3 roulotte, 2 camion, però è venuto così, un passo dopo l'altro. Non andava più, perché c'era veramente tanta gente, ho detto abbiamo bisogno di qualcuno che ci dà una mano, allora c'era qualcuno. Dopo abbiamo iniziato a fare biglietti d'entrata, poi abbiamo dovuto comprare un nuovo gradino per le sedie, allora un piccolo tendone un po' più, e poi sono arrivati i bambini. Ho detto devo ridurre un po' i spettacoli per avere un po' di aria, per avere un giorno di famiglia, di riposo. Allora era l'idea di il tendone grande, per noi grande è ancora piccola. L'abbiamo comprato, però è enorme. Primo posto un tipo è arrivato, piccolo tendone. No, è relativo, tutto è relativo. Quando ho deciso di fare la scuola Dimitri, sì, non è che non mi hanno lasciato, però non è che sono saltato dalla sedia. Cioè mio papà era d'accordo, la mamma trovava e chiedeva se non volevo fare la maestra di asilo, forse sarebbe più. Gli aveva, penso, un po' paura del mestiere, ma come vivi di arte, cioè, tra virgolette, come si vive dopo? Più queste paure. Vale sempre la pena di fare qualcosa inutile, qualcosa che infatti non c'è bisogno, però, o che non si rende conto che sia bisogno, non solo che vivi solo per il mangiare, per i soldi, che beh, l'arte è sempre questa. Ciao Spazet! Attenzione! Sa! Vai e sa! Aspetta per Spazet! Penso fare solo artisti che tu era anche questa scelta. Solo attori, solo sul palco, che non ci piaceva, infatti. No. Forse non siamo anche fatti per questi, c'è gente che lo fa benissimo così. Noi ci piace di più restare più naturali, più anche più vicino alla vita, secondo me. Sì. Sì, un po' attorno, bisogna uno lì, 16. E certo tutto il montaggio, il tendone, questi lavori duri, che vivi fuori, che sei vicino, che devi anche lottare per tante cose. Yeah. 1, 2, 3. Oh. Ah. Sì, perché facciamo tutto questo lavoro, tutto questo e ci ha attraversato, vuol dire, è nostra energia, il nostro lavoro. Conosciamo tutte le parti, sappiamo cosa ci vuole per questo momento, è tutta la vita che ci vuole. E tu lo porti sul palco e poi sei più, si può dire, naturale, più autentico. Sì, attorno, la poncia per terra. Könntest du auch noch zum kleinen Zelt helfen gehen? Ja. Tutto questo attorno non è un gioco, è lavoro. Però lo fai per lo scopo dopo di fare questo spettacolo. Penso la gente, il pubblico lo sente. Poi lo vede che viviamo nelle roulotte, che non è solo fatto per fare bello, che viviamo anche dentro. Sì, sì. Porti e poi una di rossa e gli dice dove mettere. Scarichiamo lì. Io volevo sempre abitare in un carrozzone. Devi avere poche cose, comunque è sempre ancora troppo. Le scarpe non puoi avere tanti. Delle volte quando vado dalla gente vedo hanno tante scarpe o tante giacche. Tu non puoi. Però con poco si vive, no? Finalmente non è questo importante. Certo, delle volte se piove, se con due bambini può essere stretto, però spesso penso anche avere una casa e non è che dopo hai tanto lavoro, cioè lì è fatto veloce tutto, anche pulire è fatto veloce. Questo è il letto di Samuel, tipo rientrare per avere gli spazio. C'è una... lì dorme Sasha e noi invece dormiamo lì dietro. Però di giorno è anche ancora un spazio in più, cioè un futon che si rotola. Poi lì è l'ufficio di Martin con il suo scanner e è tutto lì dentro. Ah, lì tutti i costumi. Lì dentro si può uscire un tavolo, cioè se si fa questo così dopo si può uscire un tavolo. Lì sono strumenti dentro, adesso c'è il contrabbasso dentro. Qui. E poi abbiamo la cucina, lì abbiamo un piccolo gabinetto. Lì dietro abbiamo anche un gabinetto, però non abbiamo doccia o su un posto si organizza. Anche giusto di avere una persona in più con noi, perché era un po' duro di essere da solo sul palco e nessuno che... Tu devi recitare e mentre reciti guardare che tutto va bene. Se tipo i bambini iniziano a lasciare sassi sul palco, dovevi uscire del tuo ruolo per dire no, questo non si fa. O uno esce, parte, la porta rimane aperta, o fuori c'è giovane con la musica forte, non puoi andare, cioè alla fine sentivamo che per noi ci dava anche una tranquillità, anche più forza per fare veramente lo spettacolo. Per gli adulti, grazie di spegnere i cellulari, di non fare il bottone P. Per i bambini, grazie di restare seduti al vostro posto, di non toccare il palco. Grazie a tutti di non salire sul palco. Vi auguriamo un bello spettacolo con Nicole e Marta. Da una parte è come una famiglia perché viviamo anche insieme, Non c'è solo i momenti di lavoro, c'è i momenti fuori lavori, che ti ritrovi, bevi un tè, fai musica, canti, non lo so. Però c'è anche il rapporto che è come un equipaggio su una barca, no? Parti 8 mesi e deve funzionare. L'appetit a tous les amis, grand moyen et tout petit. Li prendi dal loro posto e li fai girare 8-9 mesi senza i loro amici. Anche un po' in questo senso una piccola comunità, siamo vicini, facciamo un grande viaggio e tutti che hanno fatto la tournée hai dopo un rapporto molto bello, anche se è sempre difficile, ci sono sempre momenti molto difficili con ognuno che viene con noi, perché deve staccarsi di tutto, imparare questo, vivere, lavorare. Noi siamo per 300 persone, siamo non in tanti. Quando noi due siamo sul palco, loro in 3 fissi, poi c'è uno stagiaire che viene. Devono gestire la luce, piazzare la gente, tutto il buffet, i bambini, cioè insomma deve funzionare, se c'è troppo frizione, troppo problemi interni già non va. Così facciamo per esempio ogni settimana anche un incontro, facciamo un fuoco, ci ritroviamo, un spazio che anche se hai delle cose da dire le dici. Un momento, se non è urgente nella settimana. Siamo in 6 adulti e 2 bambini che siamo vicini, lavoriamo insieme, viviamo insieme. Se uno va male tutti lo sentono. E questo superare, andare in avanti, abbiamo detto sempre difficile, difficile, però è anche bello perché dopo tu vedi che la gente cambia, porta tanto, rivengono e dicono oh, vedi, mi ha cambiato la vita. E così cambia la vita, perché e anche dicono voglio partire da me, voglio una volta viaggiare. Tu viaggi per cambiare l'idea, per avere nuove idee. Però anch'io all'inizio facevo fatica, le prime tournée, se arrivi sempre su un posto, spesso delle volte, non so, può essere un parcheggio, mentre tutte le macchine, come se era posto bello, posto brutti, posti dove tutti ti guardano, cioè si deve abituare. Oh. La ricerca non è il numero circense, non era mai, era chiaro, è nato questa. Devi avere la passione, noi abbiamo la passione, ci piace andare ai limiti nell'allenamento, ti provare, qui conta che tu superi i tuoi limiti, che provi. Quando creiamo il pezzo teatrale non è che vogliamo far vedere come siamo bravi, non ci interessa, si vede anche come è fatto. È piuttosto di portare la storia in avanti in un altro senso, che agisci su un altro livello che solo le parole, con immagini, con qualcosa che la gente può meravigliarsi. Delle volte può essere anche un po' pesante perché quasi non puoi più uscire, no? Hai preso un treno e si va avanti, si va 8 mesi di tournée, dopo si ferma, si riparte. E anche tanto tanto lavoro, cioè non possiamo neanche essere ammalati, se uno è ammalato si ferma tutto. Però è anche bello perché fai veramente quello che tu vuoi, come lo vuoi, dove vuoi. Alla tua maniera, poi delle volte siamo ingaggiati da gente, da un comune, da un festival, però delle volte andiamo noi, siamo andati in Andalusia, dove abita mio fratello, in un villaggio piccolo, Siamo andati a trovarlo, lui ha organizzato con la moglie un posto. Abbiamo fatto a prezzo basso per il villaggio, sono venuti tutti. Era bellissimo. Voilà, comme ça tu vises pas les gens. Ah. Raté. Là, club batte. Tu tires tel Guillaume? Io penso che ancora non si accorgono veramente che è una vita strana. Penso più tardi realizzeranno di più le differenze. Per loro è... piace viaggiare, piace le tournée, piace alla fine della tournée fermarci, stare d'inverno, andare all'asilo come le altre, avere compagni. Però loro piace ripartire. Attenzione, là dove? Pas loin, okay. Pas trop, non, pas trop là, sinon après c'est ça, ouais, c'est sûr. Hein. Cerchiamo ancora un maestro che viene con noi, che farà scuola, e poi in inverno vanno a scuola in Ticino. Loro sono nato qui, proprio anche nato qui, anche il parto era qui, nel carrozzone. Qui è nato Samuele e lì dietro è nato Sasha, 3 anni dopo. No, ma noi eravamo vicino all'ospedale e così se capitava qualcosa eravamo veloci, avevamo una levatrice, no? Che è venuto. È andato bene. E soffri, si chiama Zvoka? Basta so stelsi, tu hai Sasha? Dopo i bimbi era per me duro allattare, a non dormire bene la notte, però lo stesso essere sulla strada, Martin tanto occupato ti ritrovi lì con tuo bimbo, le tue amiche, le altre mamme non sono qui. Delle volte sei un po' da solo perché anche i bimbi non è che hanno tanto amici, arrivano ogni volta sul posto una settimana. Hanno fortuna, ci fanno svelto amici, però non sempre e poi si riparte.